Vela i documenti segreti. Fisotelli, siamo già una nazionale multietnica, dice il giocatore. Dei bambini stranieri in Italia, il 60% è nato qui. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati, un presidente per la Consob e per l'Autorità per l'Energia, novità per i rifiuti a Napoli, dati sulla criminalità organizzata. Sono stati molti i temi questa mattina in Consiglio dei Ministri. Allora cominciamo da qui con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Anna. Innanzitutto la notizia di questi istanti è appunto la nomina da parte del Consiglio dei Ministri di Antonio Catricalà come nuovo presidente dell'Autorità dell'Energia, e si volta pagina anche alla Consob, dove da oggi a vigilare sulle società quotate in borsa ci sarà Giuseppe Vegas. Per 141 giorni, da quel 30 giugno in cui Lamberto Cardia lasciò per andare alla presidenza delle Ferrovie dello Stato, la Consob era rimasta senza guida. La notizia è arrivata al diretto interessato mentre si trovava in qualità di vice ministro dell'Economia in aula, in procinto di formulare i pareri sugli emendamenti alla legge di stabilità. Sentiamo allora come l'ha accolta. Credo che motivi di opportunità facciano propendere per il fatto di non continuare l'esame di questa finanziaria da parte mia seduto in questo banco. Colgo l'occasione per scusarmi con lei Presidente e con tutti i colleghi per avere in tutti questi anni grazie. Perché forse in tutti questi anni non ho sempre, qualche volta ho infastidito qualche collega perché in qualche occasione è capitato che non abbia dato sempre un parere entusiasticamente favorevole su qualche emendamento, e di questo me ne scuso. Detto questo, però, nel ringraziare tutti anche di questa calorosa accoglienza, concluderò, come dice il poeta, che partire è un po' morire. Grazie. Palazzo Chigi la libera poi al decreto legge per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, una seduta, quella di oggi, caratterizzata da un fuori programma, cioè la visita del segretario PD Pierluigi Bersani nella sede dell'esecutivo poco prima della riunione, visita che il ministro dell'interno Maroni ha definito irrituale. Bersani ha voluto andare a Palazzo Chigi per chiedere di non affidare i termovalorizzatori in Campania alle amministrazioni provinciali. E da Roma è tutto, con la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E a Napoli intanto oggi sono 2.800 le tonnellate di rifiuti in strada, mentre il sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, è indagato per interruzione di pubblico servizio. Il motivo è l'ordinanza con cui ha vietato di sversare altri rifiuti dei comuni del Vesuviano a Cavasari. In Consiglio dei Ministri si è parlato anche di criminalità organizzata. L'arresto ieri di Iovi nel boss dei Casalesi, ha ribadito il ministro Roberto Maroni, è un risultato eccezionale e straordinario. Tra i boss in cella mancano solo Zagaria e Messina, ha aggiunto, e anche per loro il cerchio si stringe. Oggi Maroni, insieme al ministro della giustizia Alfano, andrà a Napoli, e allora a Napoli torniamo anche noi. Era nascosto a Casal di Principe la sua roccaforte, un nascondiglio sfrontato a 200 metri dalla caserma dei carabinieri, a meno di 500 metri dal municipio. La latitanza di Antonio Iovine, incontrastato boss capo dei casalesi, durava da oltre 14 anni, un tempo enorme. L'ultima immagine conservata nei casellari giudiziari del boss erano infatti ancora in bianco e nero. Fu scattata quando aveva ancora 21 anni, da allora è sempre stato in libertà. Fondamentale nella cattura del boss le intercettazioni telefoniche, come ha confermato il capo della DDA napoletana Cafiero De Rao. Strumenti investigativi che sono stati utilizzati sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, e questo significa che gli strumenti sono quelli tradizionali ma altamente sofisticati e costosi. E proprio lunedì sera era stata intercettata una telefonata in cui si avanzava una richiesta insolita come quella dell'acquisto di un panettone, particolare che aveva insospettito gli investigatori. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Va avanti anche la discussione sulle infiltrazioni della criminalità al nord, così è intervenuto il ministro Maroni. È stata inviata al Parlamento la relazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, che confermerebbe alcune tesi contro le tesi del Ministro dell'Interno. Un po' comica la notizia perché la relazione della DIA l'ho firmata io, è il Ministro dell'Interno che invia al Presidente di Camera e Senato la relazione semestrale della DIA. È esattamente quello che penso e che ho sempre sostenuto, cioè l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle regioni del Nord è una realtà purtroppo evidente, e volevo solo precisare questo perché francamente presentare come una contrapposizione rispetto a quello che dice il Ministro dell'Interno una relazione firmata dal Ministro dell'Interno mi sembra, diciamo, un errore in buona fede da parte di chi ha ipotizzato questa cosa. E a Radio 24 questa mattina è stato ospite il procuratore antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, intervistato da Alessandro Mila. Allora, l'andrangheta, guardi, è più forte e più arrogante di prima, perché è più ricca. Noi non dobbiamo considerare la presenza della mafia o il successo o l'insuccesso nei confronti della mafia dal numero degli arrestati o dal numero degli agenti catturati. Noi misuriamo il grado di vivibilità della società. Quando Saviano dice la mafia al nord interloquisce con la Lega, è una frase condivisibile o no? Non le posso rispondere perché ci sono delle indagini in corso, parlo solo di cose già passate in giudicato, siamo in fase di indagine, quindi non le posso rispondere a questa domanda. Così la risposta del procuratore antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Questa mattina nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto: voi da che parte state nello scontro Saviano-Maroni? Gli ascoltatori di Radio 24 hanno risposto così: con Saviano il 52%, col ministro Maroni il 48%. Voltiamo pagina, andiamo all'estero. Il pubblico ministero in Svezia ha spiccato un mandato di arresto per il fondatore del sito Wikileaks, il sito che ha rivelato migliaia di pagine di documenti segreti. La vicenda era esplosa in agosto, ma ora prende una svolta decisa. Il procuratore svedese Marianne Nye ha spiccato un mandato di arresto per violenza sessuale nei confronti di Julian Assange, il fondatore del sito Wikileaks, che ha rivelato migliaia di documenti segreti, tra cui a ottobre 70.000 documenti militari americani sull'Afghanistan. Ho chiesto al tribunale di Stoccolma di arrestare Assange, sospettato di stupro, molestie sessuali e coercizione nei confronti di due donne, si legge in un comunicato del PM, che ha spiegato di aver presentato la richiesta per interrogare l'australiano finora irreperibile. Il fondatore di Wikileaks è stato accusato di un presunto stupro che avrebbe avuto luogo a Enköping il 14 agosto, oltre a 3 casi di molestia a Stoccolma e a 1 di coercizione illegale. Un mandato di arresto era già stato spiccato il 20 agosto, ma subito ritirato. Assange aveva ammesso tramite il proprio legale di aver conosciuto le due donne, escludendo però di aver fatto sesso non consensuale. All'inizio di settembre il procuratore capo svedese aveva annunciato di voler riaprire l'indagine per stupro, poi chiusa a ottobre, lasciando invece aperta quella per molestie. Oggi la svolta. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I difensori di Luigi Chiatti hanno chiesto che goda di permessi per buona condotta. Chiatti, ricorderete, ha ucciso nel 92 due bambini di 4 e 13 anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze gli avrebbe concesso di uscire, ora si dovrà capire quale sarà l'iter. Nel 2008 la Corte di Cassazione decise di negare permessi premio a Luigi Chiatti, reo confesso ma mai pentito degli omicidi di Simone Allegretti, 4 anni, e Lorenzo Paolucci, 13 anni. Chiatti è considerato a tutti gli effetti un killer seriale pedofilo. Lui stesso, a colloquio con gli psicologi, avrebbe ammesso: fuori dal carcere sarei solo e potrei tornare a uccidere di nuovo. Oggi i suoi avvocati difensori hanno nuovamente chiesto permessi premio, così come previsto dalla legge Gozzini, ma questo non significa che gli verranno concessi. Come ci spiega una funzionaria del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. La persona direttamente interessata può sempre chiedere, e poi fa l'iter, e se interviene la Cassazione vuol dire che la Procura fa ricorso contro i permessi premio, li concede il magistrato di sorveglianza, però c'è sempre la Procura che può, avverso la decisione presa dal magistrato di sorveglianza, fare appello. Chiatti fu condannato all'ergastolo doppio in corte d'assise, la pena fu poi ridotta a 30 anni in Cassazione, tra lo sconcerto generale accentuato dalle dichiarazioni dello stesso Chiatti. Fuori lo potrei rifare. Quando uscirà dal carcere a fine pena, Chiatti avrà 50 anni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stranieri ormai di seconda generazione. Sono 930.000 gli stranieri tra i bambini in Italia, secondo un rapporto pubblicato oggi da Save the Children. Il 60% di loro è nato qui. Eppure, ieri sera alcuni ultra della nazionale italiana impegnati in Austria contro la Romania hanno lanciato fischi contro Mario Balotelli. Qualcuno ha anche esposto uno striscione, subito tolto, con la scritta «No alla nazionale multietnica». «Siamo già una nazione multietnica», ha ribattuto il giocatore. A Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta e autore di un romanzo, Bu, con Balotelli protagonista, Dario Ceccarelli ha chiesto quanto sia importante non minimizzare questi episodi. Io non minimizzerei, perché forse questo è il rischio maggiore, cioè di dire sono quattro imbecilli, come è stato detto purtroppo qualche anno fa anche dal CT della nostra nazionale, non è razzismo e ignoranza, quando per esempio Balotelli era stato insultato e infamato a Torino, no? Dicevano se Socò è nero, nessuno gli ha detto niente. Ecco, già dare delle giustificazioni per me è pericolosissimo, se uno invece di dire antipatico dice negro, è razzismo, e l'abbiamo visto anche a Cagliari qualche settimana fa. L'anno scorso era successo con Balotelli, anche lì si diceva ma Balotelli provoca. Quest'anno l'hanno fatto con Eto'o, che è l'ultimo dei provocatori, e quello è razzismo. È vero che poi sono sempre i soliti, quindi c'è questo gruppuscolo di estrazione politica, di estrema destra, che ascolta l'inno facendo il sfruttista, però ecco, forse c'è, almeno a livello di curve, generalizzato questo sentimento di non accettazione dell'unità italiano. In questo caso Balotelli è italiano, ma anche del colore della pelle, quindi c'è un razzismo latente che bisogna assolutamente controllare. Una notizia di questi minuti: stop alla sperimentazione dei body scanner avviata nei mesi scorsi negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia. Non hanno dato i risultati attesi e quindi si procederà a testare un altro tipo di body scanner. La decisione è presa dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza degli Aeroporti, riunitosi presso l'ENAC. 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24. Dopo 141 giorni la Consob ha un presidente, Giuseppe Vegas. Catricalà andrà all'autorità per l'energia. Maroni, boss in cella, mancano solo Zagaria e Messina e anche per loro il cerchio si stringe. Accusato di stupro in Svezia il fondatore di Wikileaks, il sito che svela i documenti segreti, c'è un mandato di arresto. Irlanda, si tratta per il maxi debito, l'euro tira un sospiro di sollievo. E ripartiamo proprio da qui. Il prestito all'Irlanda ci sarà e da diverse decine di miliardi di euro da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale per riparare le disastrate banche del paese. La previsione del governatore della Banca Centrale Irlandese Patrick Honan, mentre oggi a Dublino iniziano le consultazioni tecniche. Proprio oggi l'OCSE ha stimato che i salvataggi pubblici delle banche provocheranno un deficit di bilancio spaventoso per Dublino sul 2010, pari al 32,3% del PIL. Previsioni OCSE che riguardano anche l'Italia. L'OCSE, il club dei paesi ricchi, vede un rallentamento della ripresa economica rispetto alle tendenze che erano emerse a inizio anno. Per l'Italia la revisione al ribasso delle stime è contenuta. Il PIL dovrebbe crescere dell'1% quest'anno e dell'1,3% il prossimo. Sarà però più contenuto il disavanzo, merito della condotta della politica fiscale, come ha detto il capo economista OCSE Piercarlo Padoan. E questo ha evitato alla penisola le attenzioni dei mercati su un debito pubblico che è comunque elevato. La raccomandazione dell'OCSE è di procedere a una rapida approvazione della finanziaria, che va nella giusta direzione, di attaccare il nodo del debito per ridare slancio e sostenibilità a una crescita che altrimenti è destinata a restare modesta, e di affrontare le ben note criticità strutturali, produttività, innovazione, istruzione e anche il peso della tassazione sul costo del lavoro. A livello globale l'organizzazione prevede una crescita trainata dai paesi emergenti pari al 4,6% quest'anno, seguita dal 4,2% il prossimo, per poi ritrovare il 4,6% nel 2012. Giuliana Licini, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Si alza lo scontro in Fiat, una giornata di mobilitazione con sciopero di tutti i lavoratori del gruppo da effettuarsi entro gennaio e la proposta della segreteria della FIOM, l'assemblea dei delegati delle tute blu della CGIL del gruppo che è in corso a Roma. Lo sciopero dovrebbe essere a sostegno di una trattativa con la Fiat a livello nazionale sul piano industriale contro l'accordo di Pomigliano. Parole del Papa oggi che fanno discutere le tecniche relative alla cosiddetta salute riproduttiva, con il ricorso a tecniche artificiali di procreazione o alla eutanasia legalizzata, feriscono e sono contrarie alla giustizia sanitaria. Parole di Benedetto XVI nel discorso di salute ai partecipanti alla conferenza internazionale per gli operatori sanitari. Anche i volontari sono finiti nel mirino della folla di Haiti, che presidia le strade di Cap Haïtien, la seconda città dell'isola, tra le più colpite dall'epidemia di colera che rischia di aggravarsi con lo stop alle operazioni di soccorso cui sono state costrette diverse agenzie umanitarie. Almeno 6 feriti solo negli ultimi scontri. E da oggi a Milano Umberto Veronesi promuove Science for Peace, la scienza per la pace. Umberto Veronesi lo ha intervistato Nicoletta Carbone. Tutte le nuove generazioni vogliono la pace. Abbiamo fatto interviste ovunque, qualsiasi ragazza vuole la pace. Su questo ci aiuta anche internet. Internet e la radio e tutti i mezzi di comunicazione permettono a un ragazzo di collegarsi con tutto il resto del mondo. Si sente cittadino del mondo, si sente padrone del mondo. E questo è un enorme elemento verso la pace. Per di più, oggi i ragazzi viaggiano tutti i continenti con facilità e quindi prendono rapporti con civiltà diverse e le fanno anche proprie, e questo è il miglior deterrente verso la guerra. Professore, guerra, pace e ricerca, diamo un significato a queste tre parole secondo i valori di Science for Peace. Iniziamo dalla guerra. La guerra è una forma di regressione mentale ed è antieconomica e mette tutti i paesi in guerra sull'orlo del collasso economico. La pace è la grande aspirazione di tutti i popoli, è l'obiettivo di un'umanità che vuole fare un passo in avanti nella propria civiltà, e la ricerca è uno strumento per dare alla scienza la forza di espandersi. L'intervista integrale la trovate sul sito di Radio 24 nella sezione dedicata a essere e benessere. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami. Guai per Renato Zero arrivano dal fisco, sentite. Zero follia da oltre 2 milioni di euro. A tanto ammonta l'evasione fiscale che la Procura di Napoli contesta a Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, il popolarissimo e amato cantautore al cui indirizzo il PM Vincenzo Piscitelli ha spedito ieri un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Zero avrebbe emesso fatture false e trasferito illecitamente soldi su un conto corrente aperto a Monte Carlo. Il cantante aveva già regolarizzato la sua posizione con il fisco per la medesima vicenda, ma deve ancora fare i conti con l'indagine penale che rappresenta un capitolo di una più complessa e articolata inchiesta sulle attività e i clienti della commercialista napoletana Stefania Tucci, ex moglie di Gianni De Michelis. Tra gli indagati figura anche il fratello dell'artista, Giampiero Fiacchini, in quanto gestore di fatto delle attività economiche e artistiche del cantante. Zero sarà interrogato a Napoli il 9 dicembre. Si conclude invece con un happy end il duello con il fisco di Ornella Muti. La Cassazione ha stabilito che l'attrice non dovrà pagare 1 milione di euro per non avere pagato le tasse nel 1997. Domenico Lusi da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poco fa un comunicato dei legali di Renato Zero: il cantante è estraneo ai fatti, così dice il comunicato. La crisi politica attuale ha radici antiche, ne è convinto il senatore Gennaro Acquaviva, consigliere politico di Craxi durante i governi degli anni Ottanta e presidente della Fondazione Socialismo, che organizza oggi e domani a Palazzo San Macuto a Roma un convegno sul conflitto tra socialisti e comunisti negli anni di Craxi. Paolo Piacenza gli ha chiesto perché quella vicenda continua ad avere rilevanza. Scusate. Non aver fatto allora questa ricomposizione, almeno sui contenuti, se non sono nei partiti, diciamo così, ha prodotto lo sbrego successivo, cioè siamo arrivati alla crisi devastante della fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, e alla preminenza di una destra populista. Le responsabilità rispetto a questo quali sono a suo avviso? Da un lato il Partito Comunista, che era il partito egemone, nel senso che aveva quasi il 34% dei voti, tra i due colpevoli, diciamo così, se c'è uno che aveva questa forza, doveva essere lui a guidare la trasformazione, e non lo fece perché, diciamo, il gruppo dirigente guidato da Berlinguer non fa la scelta, diciamo così, oggi diremmo socialdemocratica, non fa la scelta riformatrice. Dall'altro lato il Partito Socialista aveva tutto, grazie ai socialisti sono i moderni, diciamo così, sono quelli che hanno capito tutto ma non hanno la forza per costruirlo, e tra questi due contendenti si crea questa tragedia, diciamo, che porta al berlusconismo, ecco, adesso alla crisi attuale. Sequestrato a Pavia l'impianto della Riso Scotti Energia S.p.A., un'azienda del gruppo Riso Scotti creata per produrre energia pulita da fonti rinnovabili. Secondo le indagini, in realtà vi venivano bruciati rifiuti di tutti i tipi, anche pericolosi. In città ancora vivo il ricordo della maxi operazione di luglio che ha decapitato l'ASL cittadina. Le preoccupazioni del sindaco Alessandro Cattaneo, al microfono di Laura Bettini. Vorremmo capire i dati dell'ARPA, quelli a valle, cioè i sistemi di rilevamento di emissione, sia al camino di emissione dei fumi, sia nel sistema di rilevazione che esiste, che è attivo su tutto il territorio comunale e non solo, che cosa ha registrato. Quindi il mio settore ambiente ha chiesto questi dati, perché come autorità cittadina credo che devo essere più che attento e quindi indagare con scrupolo. Pavia è già stata toccata da recenti operazioni contro l'Ndrangheta, adesso arriva anche la questione rifiuti. Purtroppo sappiamo che i rifiuti a volte sono collegati alle mafie in generale in Italia, quindi forse... No, effettivamente anche questa è una spia, e quindi anche questo aspetto lo andremo a indagare. Non bisogna assolutamente mettere la testa sotto la sabbia. Ed ora un'altra storia di cronaca. Due fratelli in uno scooter in pieno centro storico. Il minore tenta a sorpresa uno scippo di una donna con neonato e poi tenta di scappare, ma il fratello maggiore, dopo un breve inseguimento, ne blocca la fuga e lo consegna ai carabinieri. Ai militari dice: ho dovuto farlo, devo impedire a mio fratello di prendere una brutta strada. Poteva essere un episodio di piccola malavita come tanti altri, quello di ieri pomeriggio a Catania. Invece un tentato scippo ha finito per rivelare una storia umana di rara intensità. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di ieri nei pressi del Teatro Massimo Bellini. Vittima del tentato scippo, una donna che spingeva su un passeggino la figlia di un anno, il ragazzo alla guida dello scooter, 36 anni, accortosi di ciò che stava accadendo, ha bloccato il ciclomotore e ha chiamato il 112, permettendo così l'arresto del fratello minore. Quest'ultimo, 27 anni, ora è indagato per tentativo di rapina. La donna aveva fatto resistenza e per questo è stata trascinata per una trentina di metri sull'asfalto, riportando una frattura alla spalla, fino a che il fratello più grande, accortosi di quanto accadeva, ha fermato il motore. I carabinieri hanno verificato con l'aiuto di alcuni testimoni e con la comparazione della voce che ha chiamato al 112 che la versione del fratello maggiore corrisponde a verità. Rosa Maria Di Natale, Radio 24 e Sole 24 Ore, Catania. I guai della Qantas, la compagnia aerea australiana che negli ultimi mesi è andata incontro a non pochi incidenti. Ora la Rolls-Royce potrebbe dover sostituire la metà dei motori montati sugli Airbus A380 già venduti. Il primo incidente Qantas, ricordiamo, fu l'esplosione di una delle turbine durante un volo. Si tratta in pratica ora di cambiare un motore su due in servizio sugli aerei a due piani, i giganti dei cieli. Dagli aerei ai treni, c'è chi punta sul supermercato mentre si viaggia, chi sul web. Enrico Pagliarini. Buongiorno, mi trovo a bordo di una Freccia Rossa tra Bologna e Milano, dove l'ingegnere Moretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, assieme a quello di Telecom Italia, Berrabè, hanno presentato un servizio che permette di connettersi a bordo del treno con una rete Wi-Fi e anche con una piccola rete a bordo UMTS, tutto ciò per migliorare le connessioni a 300 km all'ora, sia per chi si connette con un computer a internet via Wi-Fi, ma anche per chi telefona tramite la rete UMTS. In questo momento vi ho inviato un servizio che ho registrato poco fa e ve l'ho proprio inviato con questo sistema di bordo, e lo sentiremo, immagino, nel giornale radio delle 14. E vedremo allora come sarà andata a finire. Grazie, nel frattempo buon viaggio ad Enrico Pagliarini. Noi invece ci fermiamo qui, sono le 13:28 minuti, in regia Fabio Cantadori, ancora una buona giornata da Anna Migliorati e l'appuntamento appunto è col giornale radio delle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.